male, ci sentiamo dopo, dai. Ciao. Antonio, superi a Sandro adesso, prima non ce la facevi, capito? Ci sentiamo dopo, ciao Massimiliano. Ok, dai, ciao ciao. Sento Sandro Abu Fuborra, mi prende. Fare una commissione. Ah, il K. sì, che si pigliano. Allora era Barbareccio, non c'entra. Non sei su là, Natali. No, non l'ho neanche sentito quello. Natalino, c'è 45. Mi viene male adesso, sto guidando, va. Su 45 Natali, per cortesia, ma non per la cortesia. Natali! Te l'ho detto che mi piace adesso? Fammi la cortesia, fatele sul canale 45. Che certo qua mi stanno prendendo le palle, non so che cazzo sia. Adesso era da parecchio tempo, era, stasera se ne è andato col piede. Se mi fai la cortesia di andare in quel canale lì, vai. Non è male che sto guidando. Adesso prenditela e vaffanculo, tu l'hai rotto. Vai lì su 45.